E ora? Ora c'è il dialogo. È meglio telefonare subito all'albergo. C'è un telefono nel mio ufficio. Grazie, Giovanni, ma ho il mio cellulare. Ah, certo, il telefonino. Però non ho il numero. C'è un elenco telefonico? Certo, ecco. There are two ways of saying mobile phone in Italian. The official one is cellulare or telefono cellulare. But people often use the word telefonino, literally little phone. Italians love chatting to each other, especially on mobile phones. In fact, more people have mobiles in Italy than anywhere else in Europe. In this next dialogue, you'll hear the result of Lorenzo's search in the telephone directory. But first...